Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. Come vivono i cristiani in Nigeria, sempre più nel mirino del terrorismo fondamentalista? Oggi vi proponiamo la testimonianza esclusiva di chi guida la Chiesa Cattolica ad Abuja, l'arcivescovo John Onaiyekan. Si tratta della situazione in Nigeria, non soltanto dei cristiani. Tutto il paese è sotto la paura di questo piccolo gruppo di terroristi, anche se sono terroristi islamici, perché uccidono tutti, non solo i cristiani. Ora, è vero che abbiamo sofferto molto, siccome sono fanatici islamici, hanno anche mirato le chiese, hanno ucciso tante persone. Ma non è che in Nigeria siamo davanti a una situazione dove un piccolo minoranza debole dei cristiani viene perseguitati da un grande folla di musulmani. Non è così. Attaccano le istituzioni dello Stato, attaccano gli agenti di sicurezza, attaccano la gente normale con bombe nelle piazze pubbliche. Non è che si trova in un paese dove il governo ha una politica di persecuzione dei cristiani e dei cattolici. I fedeli hanno paura anche di partecipare alle funzioni religiose? Al contrario, il paese è molto vasto, la gente non si sono lasciati di essere così impauriti di non più andare in chiesa. Al contrario, ci vengono, l'afflusso alla chiesa non è ridotto. Le chiese sono piene. Che cosa secondo lei può fare la comunità internazionale? La comunità internazionale prima di cosa è di cercare di capire tutta la vicenda. Credo è importante anche metterlo nel contesto di un paese che soffre adesso di un governo debolissimo che non sa come affrontare le responsabilità di un governo. Per esempio, grandi persone nel governo rubano mucchio di soldi, ne parlano tutti e niente succede. Durante le elezioni vengono truffate e gente si mettono in potere che non hanno vinto nessuna elezione. Ciò vuol dire che il governo non è capace di affrontare i problemi del paese. E in questo contesto generale escono fuori un piccolo pugno di fanatici musulmani e fanno ciò che vogliono e uccidono dove vogliono e il governo non ha modo di rispondere efficacemente. Secondo me la situazione è più vasta di questo. C'è chi uccide per fanatismo religioso, c'è chi sono altra gente che uccidono un grande numero di nigeriani attraverso la corruzione, il fatto che gli ospedali non funzionano, i giovani sono dappertutto senza lavoro, c'è tante cose da risolvere. Come Chiesa Cattolica vi sentite soli? No, noi ci sentiamo soli, perché si deve ricordare che non solo noi cristiani che abbiamo problemi e non siamo soli a cercare qualche soluzione. Ci sono anche musulmani di buona volontà che anche loro condannano ciò che succede e vogliamo cercare il modo di poter metterci insieme, di lavorare insieme nell'ambito di relazioni interreligiose. E questo comincia adesso a prendere consistenza sempre di più, perché ormai in Nigeria tutti si rendono conto che così non si può continuare a lungo. Ora c'è Don Willy Volonté. L'Università di Trieste recentemente ha promosso la presentazione del secondo volume di Gesù di Nazareth, scritto da un autore d'eccezione, Josef Ratzinger, Benedetto XVI. Ho paragonato il suo approccio di fine studioso con un volume di divulgazione scritto dal giornalista Corrado Augias e dal professor Mauro Pesce, Inchiesta su Gesù. Il paragone ovviamente non regge. Infatti Josef Ratzinger affronta la persona di Gesù di Nazareth utilizzando il metodo storico critico, ma aggiungendovi l'altro e non meno scientifico metodo interpretativo della fede. I due autori, auge specie, certamente pensavano di scandagliare con la ragione l'evento Gesù di Nazareth, ma riducendosi a questo sono giunti a un risultato ultimamente parziale. Sì, perché affrontare Gesù di Nazareth solo come un evento puramente storico non se ne viene a capo di nulla, mentre aggiungendovi il metodo della fede non solo non si aggiunge niente di stravagante e di visionario, ma si usa una forma di conoscenza ben più profonda e ultimamente più intelligente. Non percorrere questa strada si rischia di arrivare a strane affermazioni, come quella pronunciata dal primo cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, che dopo aver viaggiato per qualche ora nello spazio cosmico, ritorna a terra e esclama: «Compagni, ho girato per il cielo e vi assicuro che non ho incontrato Dio». La passione dell'innamorato la si può analizzare certamente con lo strumento scientifico della psicologia, ma essa è qualcosa di infinitamente di più grande, tanto da poter giungere alla decisione di stare insieme alla persona amata per tutta la vita. Insomma, lo scandaglio della fede è infinitamente di più che sottoporre alla radiografia un cadavere che si è proclamato figlio di Dio, come gli autori succitati pretendono. La conoscenza amorosa è più intelligente perché spinge la ragione a superare se stessa e a sondare il mistero.